con Vincenzo Miglietta. Sette, ben trovati allora da Vincenzo Miglietta, auguri per questo nuovo appuntamento con Focus Economia che cade a metà settimana dopo la pausa natalizia. Dobbiamo recuperare ed approfondire dunque alcuni temi degli ultimi giorni, a partire dall'intesa sul contratto degli statali, una sigla questa sottoscritta nella notte tra venerdì e sabato scorsi ed attesa da un decennio, hanno sottolineato dal governo. Nuove regole, scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117 euro lordi al mese per una media di 85 euro e poi nell'accordo stretta su assenteismo, molestie e conflitti di interessi. Ci soffermeremo quindi sulle quotazioni di petrolio ed euro e sui motivi che hanno richiamato l'attenzione sul loro andamento degli ultimi giorni. Le tensioni in Libia per il greggio, la finanza sempre più affidata ai software per la moneta unica, dinamiche queste che stanno influenzando i mercati internazionali, movimentati anche dalle vendite sui titoli tecnologici. Diamo allora un rapido sguardo alle principali borse, partiamo da New York, Wall Street, con il Dow Jones in questo momento più 0,15% a 24.782 punti ed ancora Standard & Poor's 500 più 0,17%, Nasdaq che più 0,24, quindi notizie, quadro positivo al momento da New York. Veniamo alle borse europee partendo come al solito da Milano, qui il segno invece è negativo, meno 0,06%, i migliori e i peggiori del FTSE MIB, tra i migliori Saipem, Banco BPM, Moncler, Buzzi, Unicem ed Unipol, tra i peggiori Intesa San Paolo, STM, Mediaset, Enel e Banca Generali. Per dare un senso invece degli scambi, i titoli più scambiati in ordine decrescente: Unicredit, Eni, Saipem, Intesa San Paolo, Banco BPM, STM. Abbiamo detto quindi dei titoli più scambiati. Gli altri listini europei: Francoforte sostanzialmente piatta, bene Londra più 0,43%, bene Parigi più 0,14%, male Madrid meno 0,13%. Il cambio euro-dollaro, questo ci interessa particolarmente in questo momento, 1,188, ed ancora lo spread poi dei titoli di Stato BTP nei confronti del Bund tedesco a 152 punti più 2,22%. Sin qui dunque i mercati. Nella puntata di oggi ci occuperemo anche del mezzogiorno, continua il trend positivo iniziato lo scorso anno, questa è una buona notizia e ne parleremo in base anche ai dati diffusi da uno studio di Confindustria Intesa San Paolo e poi serata di Coppa Italia, lo abbiamo ascoltato anche dal GR, ricordiamo il derby Milan-Inter, ci interessa perché per qualcuno è anche il derby dei bilanci, forse dei debiti delle due società in mano cinese. Questi dunque i nostri temi principali, potete scriverci al 349-238-6666 oppure visitando il sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. E allora per le notizie in breve partiamo come al solito dalle materie prime, con l'oro più 0,2% a 1.285 dollari l'oncia. Il petrolio ci interessa particolarmente, partiamo allora dal WTI che ha viaggiato fino a pochi istanti fa a 59,60 dollari al barile dopo che era risalito ieri a 60 dollari per la prima volta da fine giugno del 2015. A spingere le quotazioni l'esplosione di un oleodotto in Libia per un attacco terroristico. Il Brent invece oscilla attorno a 66,4 dollari al barile dopo aver superato quota 67 dollari. Il greggio è sotto osservazione soprattutto a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,49% a 59,34 dollari con l'esplosione, ricordiamo, di questo oleodotto in Libia che sta causando diverse tensioni internazionali. tema del petrolio lo approfondiremo tra breve. Un altro tema molto importante, il cosiddetto flash crash di Natale dell'euro. La moneta unica ha subito un improvviso crollo nel giorno di Natale, con un calo che è stato attribuito dagli analisti a vendite computerizzate, il cui effetto è stato amplificato dal livello tradizionalmente esiguo degli scambi per le festività. In pochi minuti la moneta unica lunedì ha perso il 3%, secondo Bloomberg, anche se i dati dell'agenzia statunitense riportati il giorno successivo dal Financial Times hanno mostrato un calo di circa il 2%, insomma tra il 2 e il 3%, ma comunque calo molto importante se si pensa che solitamente le valute a questi livelli perdono quote dello 0, e già mettono in preoccupazione i mercati, a maggior ragione in un giorno in cui i mercati erano chiusi e quindi le contrattazioni sostanzialmente erano ad opera dei grandi software. Qi Gao, uno stratega di valuta estera con sede a Hong Kong per la Scotia Bank, nel cercare di interpretare il crollo ha riportato le voci di mercato secondo cui l'ondata di vendite era stato guidato da vendite automatiche, lo dicevamo, basate su algoritmi. Il calo degli scambi non dovrebbe essere guidato dai fondamentali, ha detto al Financial Times, aggiungendo che il movimento intragiornaliero ha mostrato una brusca caduta e un rapido rimbalzo, un segnale rivelatore di un cosiddetto flash crash. E da inizio anno l'euro è in calo sul dollaro del 13% circa. Questo per dire che quindi è comunque una valuta sotto osservazione, sotto pressione. Solitamente quando una valuta è in questo stato subisce anche degli effetti collaterali per quanto riguarda l'euro, quindi questo flash crash di Natale. Quindi difficoltà per l'euro nel giorno di Natale. Il Bitcoin invece, lo abbiamo osservato la scorsa settimana, prima una rapida crescita, poi poco prima del 24, quindi il 23, una rapida discesa, continua la sua discesa, la criptovaluta torna sotto i $16,000 perdendo il 3% a $15,340,90, sotto pressione anche le altre criptovalute, quindi Ethereum e Litecoin, che cedono rispettivamente l'1,2 e il 3,1%. Una classifica che interessa sempre un po' tutti, ovvero quella degli uomini più ricchi. I paperoni mondiali si arricchiscono, nel 2017 la loro fortuna è aumentata del 23%, complessivamente i 500 uomini più ricchi al mondo hanno 5.300 miliardi di dollari, ovvero 1.000 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso anno. Quindi 1.000 miliardi di dollari in più per 500 uomini più ricchi al mondo è quanto emerge dall'indice dei miliardari di Bloomberg, secondo il quale Jeff Bezos è colui che quest'anno ha guadagnato di più, arricchendosi di 34,2 miliardi di dollari e potendo contare su una fortuna di 99,6 miliardi, un balzo che ha consentito a Bezos di strappare a Bill Gates il titolo di paperone del mondo. In tema di classifiche parliamo dell'India. Il 2018 sarà l'anno del sorpasso dell'India, che scavalcherà Regno Unito e Francia nella classifica delle potenze economiche mondiali, per arrivare poi al terzo posto nel 2032. Attualmente l'India si trova in settima posizione. Dall'India al Giappone, il tasso di disoccupazione di Tokyo a novembre è sceso al livello più basso dal novembre del 93. I dati ufficiali appena pubblicati offrono un altro segnale che la terza economia mondiale è sulla buona strada per la ripresa, anche se il ritmo è lento. I dati pubblicati dal governo evidenziano che la disoccupazione lo scorso mese si è attestata al 2,7% della forza lavoro, mentre il rapporto tra posti di lavoro e richiedenti a novembre è leggermente migliorato, in rialzo dello 0,01% a 1,56, il livello più alto da quasi 44 anni. Parliamo della Apple in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,29%, a pesare le azioni legali avviate contro Cupertino per il rallentamento degli iPhone più vecchi e le stime di vendite dell'iPhone X più lente delle attese, previsioni che appesantiscono anche i fornitori di componenti di Apple, tutti sotto pressione in borsa. E questo è un tema molto interessante perché secondo Sinolink Securities il prezzo di partenza dell'iPhone X, ovvero mi sembra attorno ai $1,000, potrebbe pesare sulla domanda nel primo trimestre fiscale dell'azienda, ovvero quello in corso. La ricerca di questi analisti stima che le consegne del dispositivo potrebbero essere fino a 10 milioni di unità inferiori di quanto atteso, arrivando a 35 milioni di pezzi. Veniamo al nostro paese, il Tesoro ha collocato bot semestrali per 6,5 miliardi, il massimo importo prefissato, con i tassi in discesa al nuovo minimo storico. Il rendimento medio è sceso a meno 0,457% dal precedente minimo di meno 0,436% registrato nel collocamento del novembre scorso. Ancora in calo in Italia i lettori di libri, passati dal 42% della popolazione di 6 anni e più del 2015 al 40,5% nel 2016. Si tratta di circa 23 milioni di persone che dichiarano di aver letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti, l'intervista per motivi non strettamente scolastici o professionali. Una notizia questa che abbiamo ascoltato nel GR delle 17, ma che è bene ricordare: più di un bambino su 10, l'11,2% in Italia, sta affrontando l'inverno in condizioni di severo disagio abitativo e il 14,8% delle famiglie con bambini non riesce a riscaldare adeguatamente l'abitazione in cui vive. E Save the Children sollecita un intervento straordinario per fronteggiare la grave situazione abitativa. Il turismo è Natale. Per il 51% dei tour operator stranieri aumenta il trend delle vendite con destinazione Italia nelle festività natalizie 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 39,3% ha dichiarato che le vendite sono stabili e il 9,7% ha registrato una leggera flessione. I dati emergono dal monitoraggio dell'Agenzia Nazionale del Turismo, che ha coinvolto 118 tour operator di tutto il mondo, e quindi si rivela che Roma si posiziona in testa alla classifica delle mete dei passeggeri aerei provenienti dall'estero a dicembre 2017, anche se fa registrare rispetto al 2016 un sensibile decremento, meno 2,4%. Milano si attesta in seconda posizione, ma con un balzo positivo, più 6,1%. Terza è Venezia, più 7,4%. Roma dunque prima nel turismo, ma in calo. Problemi per il trasporto pubblico della capitale. Per quale motivo? Perché non è molto appetibile, almeno per quanto riguarda gli sponsor, non solo, ahimè, per gli utenti. Parliamo di quasi di oltre 2600 tra bus, filobus e tram. La pubblicità su questi mezzi partirà da una base d'asta di 20,5 milioni. Nel 2015 erano stati chiesti invece 29 milioni. E il crollo verticale, secondo Repubblica, dipende da tre fattori: il disastrato parco mezzi, il tracollo del sistema economico di Roma e la lentezza del Campidoglio. Anche questo è un argomento che approfondiremo più tardi, ovvero quello del mezzogiorno. Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell'economia meridionale, lo conferma il check-up mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e studi, centro studi di Intesa San Paolo. Quindi è un trend iniziato nel 2016, prosegue nel 2017 e dovrebbe proseguire anche il prossimo anno. Ilva e ArcelorMittal, anche questa è una notizia che dobbiamo assolutamente dare e recuperare dei giorni passati, perché magari qualcuno l'ha persa durante le festività. ArcelorMittal ha comunicato ai commissari di Ilva di voler apportare modifiche al contratto di acquisto dell'azienda per mettersi al riparo da contestazioni legali in Italia. La notizia è stata tirata fuori da Reuters e si riferisce che i commissari hanno inviato al Ministero dello Sviluppo Economico il 21 dicembre una lettera in cui si affermava proprio che ArcelorMittal vuole modificare il contratto di acquisto per cautelarsi da contestazioni legali. Chiarissimo qui il riferimento al ricorso al TAR da parte della regione. Ci avviamo velocemente alla chiusura delle nostre notizie in breve, con un'altra notizia: Lavazza investe nell'intrattenimento digitale, è abbastanza originale, quindi una holding finanziaria riconducibile alla famiglia, proprietaria della nota azienda torinese di caffè, ha acquistato il 25% di Cili, servizio transnazionale in grado di offrire anteprime al cinema, prime visioni, un catalogo digitale di oltre 50.000 film e serie TV. L'operazione confermata dalla Luigi Lavazza S.p.A. ammonta, secondo indiscrezioni, a circa 25 milioni di euro. E come sempre, puntuale, fine anno, inizio anno, si parla di bollette. Con l'anno nuovo sono in arrivo rincari sulle bollette, pedaggi e tariffe, pari secondo Adusbef a 591 euro a famiglia, 952 euro aggiungendo le spese extra per i beni di consumo. Nomisma Energia prevede un più 5% nelle tariffe del gas, un più 3,5% per quelle della luce. Sentiamo allora il presidente Davide Tabarelli al microfono di Livia Zancanerra. Tutto il 2018 noi prevediamo una tendenza rialzista del prezzo del petrolio che trascina più o meno direttamente anche il prezzo del gas combustibile più usato sia in Italia, un po' meno in Europa, per fare elettricità. Pertanto sì, anche nel 2018 la tendenza dovrebbe essere di aumenti non così pronunciati come questi che ci saranno fra qualche ora, ma comunque sarà di rialzo, perciò qualche sostegno all'inflazione. E per le famiglie questo cosa vorrà dire? Solo con questo aumento stimiamo che per una famiglia tipo che consuma 2700 kWh all'anno di elettricità saranno 20 euro in più su base annua. Più importante invece per i consumi tipici di gas, cioè 1400 metri cubi all'anno, e qual è la maggiore spesa dell'ordine dei 60 euro su base annua. E qual è il contesto a livello europeo? Tutto il sistema energetico globale sta tornando a maggiore equilibrio dopo 2-3 anni caratterizzato da forte eccesso di offerta. Questo era evidente soprattutto sul petrolio, ma anche nel sistema gas europeo c'era stata abbondanza di offerta anche a livello internazionale con i prezzi del gas naturale liquefatto. E anche i prezzi dell'elettricità in Europa sono molto relativamente alti, molto più alti rispetto a quelli dell'anno scorso. C'è del problema al nucleare francese, ci sono dei problemi al sistema di trasporto del gas verso l'Europa, come abbiamo visto negli incidenti del 12 dicembre di Baumgarten o quello dell'11 dicembre nel Mare del Nord. Cioè, tutto il sistema sta tornando a più equilibrio, speriamo che non sia troppo corto, perché la domanda di energia, cosa che è anche un auspicio, continuerà a crescere, perché vuol dire che cresce l'economia. E quindi al centro del dibattito sempre i temi energetici, perché dall'estrazione del greggio poi alle nostre bollette il canale è lo stesso, quindi a diversi livelli vengono ripartiti i vari costi. Qui parlavamo delle famiglie, mentre il ministro Calenda ha firmato il 21 dicembre il decreto che dal 1 gennaio consentirà di ridurre il costo dell'elettricità per le imprese manifatturiere cosiddette energivore. Il provvedimento consente di ridurre il differenziale di prezzo dell'energia elettrica pagato dalle imprese più esposte alla concorrenza estera. Sin qui dunque le nostre notizie in breve. Direi di passare decisamente al nostro primo approfondimento, che è proprio dedicato all'energia e al petrolio. Abbiamo visto quindi le quotazioni del petrolio, gli alti, i bassi, sostanzialmente l'impennata della ripresa dopo Natale a causa delle tensioni in Libia, addirittura quindi un centro di produzione messo in difficoltà da un attentato terroristico. Il prezzo del petrolio per noi è sempre un punto di riferimento proprio per tutte le conseguenze che abbiamo detto fino al costo delle nostre bollette. Per capire di più la dinamica dell'oro nero cosiddetto, abbiamo con noi la collega del Sole 24 Ore, Sissi Bellomo. Buon pomeriggio ed auguri, Sissi. Grazie, buon pomeriggio, auguri a tutti. Ecco, sì, partiamo dall'andamento del petrolio. Abbiamo detto, l'abbiamo detto anche nei nostri GR, sta risentendo molto delle tensioni in Libia. Partiamo da qui perché ti voglio chiedere questo: se non sbaglio, la Libia non è mai tornata ad una grande produzione. Allora, perché c'è questo nesso così stretto tra la Libia e la quotazione del dollaro e del barile? Ma in realtà la Libia recentemente aveva recuperato abbastanza produzione, anche senza tornare, come giustamente ricordavi, ai livelli di un tempo, di prima della caduta di Gheddafi, per intenderci. A quell'epoca produceva, esportava 1.600.000 barili al giorno, però era comunque riuscita a risalire a 1 milione di barili al giorno all'incirca. Quindi è un produttore comunque di una certa importanza, ma quello che interessa soprattutto al mercato, al di là della perdita di 100.000 barili al giorno di produzione, perché questo sarà e tra l'altro probabilmente si sapeva oggi solo per una settimana, perché le riparazioni all'oleodotto colpito dall'esplosione non richiederanno lungo tempo, questo almeno dicono i libici. Al di là del fatto tecnico, c'è un nuovo focolaio di tensioni geopolitiche che si riaccende. In realtà sullo sfondo la Libia è sempre stato un luogo di tensioni, non è mai stato un paese davvero pacificato, certo. Però questo è un segnale preoccupante, soprattutto se veramente sarà confermato che l'esplosione è avvenuta a seguito di un attacco terroristico. Questo riporta l'attenzione dei mercati su un'altra incognita riguardo alla sicurezza, e quindi le materie prime reagiscono anche soltanto a questo tipo di tensioni e non necessariamente alla perdita di un certo numero di barili. Soprattutto perché sì, nel mondo del petrolio ci siamo un po' cresciuti, le tensioni sono abbastanza fisiologiche, però già a quelle esistenti, mi viene da pensare a un po' al braccio di ferro sotterraneo tra l'Arabia Saudita e l'Iran, certo ci si aggiunge anche la Libia, ecco perché i mercati non guardano positivamente a questi nuovi fatti. No, sono numerosi, tanti altri magari spariscono per qualche tempo dai titoli dei giornali o dall'attenzione degli investitori, però pensiamo ad esempio al caos che c'è in Venezuela, dove anche l'industria petrolifera è al collasso, pensiamo a un ritorno possibile delle sanzioni nei confronti dell'Iran da parte del presidente Trump e degli Stati Uniti, pensiamo ai missili che arrivano dallo Yemen all'Arabia Saudita, alle tensioni che ricordavi tra sauditi e iraniani, all'Iraq, che è un paese anche quello dove certamente non si può parlare di pacificazione e di situazione sicura e tranquilla, e mille altri, adesso ho citato quelli che tornano per primi alla mente. Sono tutti elementi di rischio che gravano sui mercati, che in parte sono scontati nei prezzi, e poi sullo sfondo c'è comunque che il petrolio stava già risalendo di prezzo, riguadagnando quota, adesso oggi sta leggermente correggendo, sì, certo. Comunque sì, è arrivato ai massimi da 2 anni e mezzo, con il Brent a $67 al barile, il WTI a $60, anche a causa dell'azione dell'OPEC e dei suoi alleati, a cominciare dalla Russia, che hanno effettivamente ridotto parecchio la produzione, anche più di quanto avessero promesso di fare, per riportare in equilibrio un mercato che è stato per anni in eccesso di offerta. Ecco, sì, lo hai citato tu e qui volevo arrivare. L'OPEC, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, ha più il potere che aveva un tempo, anni 70, anni 80, di dirigere comunque l'economia del petrolio, o rimane un player importante ma non così fondamentale? Da qui quindi le tensioni, ecco. Sì, no, in estrema sintesi mi verrebbe da dirti... è ancora importante solo quando è alleato con altri produttori. L'efficacia della recente azione dell'OPEC, del recente intervento dell'OPEC, dipende dal fatto che è riuscita ad allearsi con altri 10 paesi esterni, e tra questi c'è la Russia, che è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo e dei maggiori esportatori. Forse l'OPEC da sola effettivamente non basta più. Quando si unisce ad altri, e la volontà che stanno manifestando già da tempo e di mantenere una collaborazione stabile con la Russia prima di tutto, perché poi gli altri sono produttori minori se vogliamo. Ecco, in questo caso sì, riesce ancora a influire sui mercati con lo shale oil americano che fa da contraltare, che è diventato una specie di ago della bilancia negli equilibri tra produzione e consumi. È però un ago della bilancia di cui conosciamo ancora molto poco, possiamo osservare l'enorme progresso e l'enorme sviluppo della produzione di shale oil e le grandissime, ambiziosissime prospettive di ulteriore crescita, ma su questo in realtà nessuno ha le idee davvero chiare e può dire davvero se questi tassi di crescita si manterranno anche negli anni a venire. Di certo non sarà sufficiente a soddisfare la domanda di petrolio, il solo shale oil, ci vuole certo ancora anche l'altro petrolio, e ci vuole il petrolio, anticipo gli ascoltatori, infatti, un po' di anni il petrolio dovremo averlo, se non altro per alimentare l'industria petrolchimica, per gli aerei, insomma i progressi di combustibili alternativi sono rapidi, ma non sarà domani che ci libereremo del petrolio. Ecco, sì, se puoi restare con noi per un'altra domanda dopo il meteo e il tempo in diretta, arriviamo proprio sullo shale oil e sui consumi. Focus Economia. Di nuovo insieme per questa puntata di Focus Economia. Stiamo parlando del petrolio, della sua quotazione, delle tensioni attorno all'oro nero. Ne stiamo parlando con Sissi Bellomo, collega del Sole 24 Ore. Sissi, vediamo allora da una parte gli Stati Uniti che tornano ed insistono con lo shale oil, addirittura Trump dà un nuovo impulso anche al carbone, dall'altra parte molti ascoltatori ci dicono: ma come, stiamo andando sempre verso più energie alternative, il petrolio, dicevi, però resta fondamentale. Quindi dov'è la verità del nostro consumo energetico? Il petrolio sta lasciando molto gradualmente il passo ad altri combustibili nei trasporti, nelle auto, nei trasporti automobilistici, ma molto lentamente, perché la quota di veicoli elettrici o ibridi, e comunque già solo la parola ibrido indica che c'è anche un combustibile fossile oltre al motore elettrico di assistenza. Certo. E sulla intera flotta mondiale di automobili è ancora molto molto limitata come penetrazione. Gradualmente magari ci si arriverà, il petrolio è già scomparso quasi del tutto da altri impieghi come nelle centrali elettriche, però questo non è vero per tutti i paesi, ma comunque rimane la petrolchimica, la produzione di plastica, di tutti i derivati di petrolio che per adesso non hanno grandi alternative. Anche lì sì, possiamo fare i sacchetti di plastica con il mais, ma se dovessimo sostituire tutta la plastica che abbiamo con un feedstock alimentare, si capisce bene come questo avremmo altri problemi. Questo per dire che il petrolio è fondamentale ancora per i prossimi decenni. Per qualche decennio sarà ancora una importante quota del mix energetico globale. Questo lo dice qualunque fonte di previsione attendibile, qualunque centro di ricerca, anche quelli con un'ispirazione ecologista. Ecco, non sto citando dati delle compagnie petrolifere. Non è domani che sparirà, ci servirà ancora, e poiché ci servirà ancora, il suo prezzo e la sua reperibilità, la disponibilità di offerta saranno un tema che condizionerà la nostra vita e l'andamento economico globale ancora per un po'. Difficile dire la data in cui non ci sarà più il petrolio, ma anche chi parla di picco della domanda di petrolio, quindi significa che la domanda smette di crescere, non che sparisce. Certo. I più ottimisti parlano di un 2030, data in cui smette di crescere, non data in cui sparisce, non data in cui sparisce il petrolio e smetterà di servirci. Benissimo, sei stata chiarissima, grazie a Sissi Bellomo, collega del Sole 24 Ore. Chiudiamo qui questo nostro approfondimento dedicato al petrolio e passiamo alla giornata in borsa. Quindi mercati in primo piano in questo nostro spazio che cerchiamo di approfondire con il prezioso contributo del collega di Radio Core Il Sole 24 Ore Paolo Paronetto. Buon pomeriggio Paolo. Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora Paolo, com'è stata questa prima giornata, chiamiamola così, di ripresa dopo la pausa natalizia? Sì, diciamo che è stata una giornata in cui appunto il clima festivo si è fatto decisamente sentire, e gli scambi sono stati ridotti, anche le variazioni dei principali indici non sono state particolarmente significative. E a livello europeo il movimento maggiore è quello di Londra, che si avvia a chiudere in rialzo dello 0,4% circa, mentre tutti gli altri principali listini hanno registrato movimenti frazionali. Piazza Affari ha appena chiuso con un FTSE MIB in ribasso dello 0,04%. E per quanto riguarda i titoli principali sul listino milanese, ci sono stati buoni acquisti su Saipem, che ha beneficiato in avvio di un petrolio in rialzo. Il greggio sì, in mattinata ha toccato i nuovi massimi da metà 2015, e poi nonostante la successiva flessione del petrolio, ha comunque stata premiata dai nuovi contratti per circa 380 milioni annunciati venerdì a mercato chiuso, quindi la reazione del mercato oggi è stata positiva. Quindi bene Saipem, proprio sulla scia, come dicevi tu, dell'andamento comunque del settore energetico. Mi sembra occhi puntati anche oggi, e lo è da mesi, sul settore bancario. Sì, esattamente, in particolare oggi il tema di giornata è Banco BPM, che ha chiuso in rialzo del 2,44%, facendo meglio di tutte le principali concorrenti, che in realtà il resto del settore è stato per lo più in negativo. Qui a sostenere il titolo Banco BPM sono state le parole dell'amministratore delegato Giuseppe Castagna, che in un'intervista a Sole 24 Ore ha annunciato un innalzamento del target di riduzione degli NPL, cioè dei crediti deteriorati. Sì. Quindi la banca prevede di vendere o comunque ridurre il peso dei crediti deteriorati più di quanto avesse annunciato in occasione della presentazione del piano di fusione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Castagna ha inoltre confermato invece gli obiettivi di utili, quindi su questo fronte nessuna sorpresa negativa, e ha escluso ancora una volta la necessità di ricorrere a un nuovo aumento di capitale. Tutte indicazioni positive che hanno sostenuto il titolo in borsa. Quindi bene Banco BPM, grazie alla conferma degli obiettivi e alla riduzione dei crediti deteriorati, non così si può dire per Carige. Sì, per Carige si è trattato di un'altra giornata positiva, il titolo oggi ha perso il 6,82%, e dalla chiusura dell'aumento di capitale la flessione complessiva è di circa il 20%. Secondo alcune indiscrezioni riportate oggi dalla stampa, la BCE avrebbe ancora sotto osservazione la governance della banca, e soprattutto il ruolo del principale azionista Malacalza, e quindi nonostante il rafforzamento patrimoniale, diciamo che Carige sarebbe ancora sorvegliata speciale da parte di Francoforte. Il titolo quindi è ancora oggi negativo, e come dicevamo il calo è ormai molto consistente dalla chiusura della ricapitalizzazione. Ecco, un elemento che interessante per il settore bancario, logicamente, sono proprio i crediti deteriorati. Abbiamo detto bene Banco BPM, in funzione della quantità e dell'andamento di questi cosiddetti NPL, ne va anche della quotazione a Piazza Affari. Parlo in questo caso di banca IFIS, proprio immagino io Paolo per questo motivo qui, legato agli NPL. Sì, diciamo che banca IFIS è spesso tra i principali compratori, in questo caso di portafogli di crediti deteriorati, che poi si occupa di gestire e di recuperare. Il titolo oggi è salito del 6,43%, premiato anche da un report positivo degli analisti di banca Akros, che hanno alzato la raccomandazione sul titolo, consigliando adesso di accumularlo, quindi di comprarlo, e alzato il target, e confermato, scusi, in questo caso il target price a 43 euro. Attualmente il titolo quota a 41,2 euro, quindi sicuramente un ulteriore incremento, un aumento dell'attività sul mercato degli NPL potrà favorire anche l'andamento di Banca IFIS. Paolo, poi aiutaci a capire il perché i dubbi sulla crescita, sulle vendite degli iPhone, quindi parliamo di Apple, possano influenzare i tecnologici di Piazza Affari, quindi della nostra borsa? Beh, diciamo che appunto i rumors su una possibile riduzione delle stime di vendita del nuovo iPhone naturalmente hanno penalizzato tutto il settore tecnologico, e quindi non soltanto di Apple stessa, dei produttori di telefonia mobile, ma anche di chi produce i componenti naturalmente per questi oggetti. Quindi ST Microelectronics produce microchip, certo. E quindi naturalmente se si riduce il volume di vendite complessive dei prodotti finali, si riduce anche il volume dell'attività di produttori di componenti, quindi naturalmente un effetto a cascata che si riflette sull'intero comparto tecnologico. ST sul finale ha recuperato in parte terreno, ha chiuso in calo soltanto dello 0,32% dopo essere stato per gran parte della giornata uno dei peggiori titoli del FTSE MIB. Dunque, un'economia sempre più interconnessa, le fortune di Apple poi dipendono anche dai produttori internazionali, in questo caso STM, ma anche i fornitori e i produttori cinesi, immagino io, Paolo. Sì, sicuramente, un tema settoriale come questo ha riflessi su tutti i listini, non soltanto su quelli della società direttamente coinvolta, quindi naturalmente una cosa che si riflette ovunque a livello europeo. Possiamo vedere che il comparto tecnologico oggi è stato uno dei peggiori, il sottoindice del settore ha perso lo 0,24%, e quindi diciamo che è un tema che ha coinvolto tutti i titoli del settore a livello continentale. Bene, grazie Paolo Paronetto, collega di Radio Corriere del Sole 24 ore. Noi diamo spazio al traffico, alle strade in diretta e poi di nuovo insieme qui a Focus Economia. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presento Focus Economia. :46:49, riprendiamo questo percorso insieme di Focus Economia. Abbiamo chiuso la pagina dei mercati facendo riferimento anche all'interconnessione ormai dell'economia mondiale, quindi i destini di Apple nel bene o nel male influenzano anche i produttori sparsi un po' in tutto il mondo, soprattutto i produttori cinesi, è lì che vengono prodotti la maggior parte degli oggetti elettronici che abbiamo con noi. E sempre in Cina vi voglio portare in questa nostra frazione di Focus Economia che precede il GR delle 18, parlando però di calcio. Lo abbiamo sentito nei nostri GR di giornata questa sera, derby tra Milan e Inter, semifinale, quarto di finale di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà in semifinale la Lazio. Perché ne parliamo? Perché si parla di un derby e dei debiti. Allora, è con noi Carlo Festa, collega del Sole 24 Ore. Carlo, buonasera, auguri. Buonasera, auguri. Auguri Carlo, a tutti. Carlo, perché molti parlano, credo malignamente, di un derby dei debiti, allora? Ma diciamo che le proprietà cinesi, che sono arrivate appunto con grandi disegni appunto e grandi appunto obiettivi, dopo aver iniettato inizialmente appunto capitali importanti, adesso hanno dovuto adottare una strategia più diciamo di prudenza, e quindi non hanno più potuto iniettare risorse, anche perché ci sono state restrizioni da parte del loro governo, e quindi hanno dovuto seguire un'altra strada che è quella dell'indebitamento. Ecco, per l'Inter l'indebitamento è di tipo differente rispetto a quello del Milan, perché sì, appunto ha lanciato un bond e si è rivolto quindi al mercato. Invece per il Milan la strada è stata scelta tramite un prestito con un hedge fund, Elliott, e quindi una strada diciamo anche più rischiosa, e mentre l'indebitamento dell'Inter è a più lunga scadenza, perché scade nel 2022, quello del Milan scadrà il prossimo anno, quindi sono due situazioni differenti, sono entrambi due gruppi che si sono indebitati, e quindi a dimostrazione che non esiste più il calcio di un tempo, dove era appunto il proprietario a tirare fuori i soldi per le squadre, pensiamo soltanto appunto a Moratti e a Berlusconi, e a diversi altri, insomma, sensi della Roma. Adesso la strada è quella di un calcio molto più finanziario, dove si scelgono strutture finanziarie anche molto rischiose. Ecco, che poi, Carlo, è una realtà, questa qui internazionale, ma molto tipica almeno del nostro paese, ovvero non c'è più, come dicevi giustamente tu, un'iniezione di liquidità dalla parte di qualche proprietario, cosa che invece continua ad avvenire per esempio in Francia oppure in Premier League. La nostra Serie A viene fatta tutta a debito, così diciamo, anche se ricordavi, insomma, bisogna vedere casi differenti, perché appunto in Inghilterra ci sono stati casi di grosso indebitamento, basta pensare appunto al Manchester United, no? Quando certo. È stato comprato dagli americani, si sono indebitati tantissimo, stavano sul punto di fallire, poi hanno quotato il club, hanno lanciato anche loro un bond, quindi sono riusciti a salvarsi in qualche modo. Poi c'è il caso del Manchester City invece, che è stato comprato da uno sceicco, ed è lo sceicco che tira fuori tutti i soldi. Insomma, in Francia, anche in Francia abbiamo avuto casi di club molto indebitati, basta pensare al Marsiglia, no? E poi sì. Invece su Paris Saint-Germain hanno avuto la fortuna di trovare i reali del Qatar, ovviamente che non si indebitano, i reali del Qatar tirano fuori i soldi, perché insomma ne hanno a disposizione sfruttando appunto il petrolio, no? Le plusvalenze sul petrolio. Quindi, cioè, diciamo, ogni squadra più che ogni paese è differente. In Italia c'è stata questa ondata di investimenti esteri che ha fatto sì che si utilizzasse molto la finanza. Ecco, ma una cosa molto interessante, c'è un nesso così immediato tra risultati sportivi e destino del debito, ovvero un'annata storta da parte di una squadra rischia poi di influenzare la rimborsabilità di questo debito, secondo te, oppure i tifosi sotto questo aspetto devono star tranquilli? Ma diciamo che ci può essere un nesso fra risultati sportivi e conto economico, quello sì. Fra situazione finanziaria e risultati sportivi invece ci dovrebbe essere un nesso meno forte, ma facciamo il caso anche del Milan, ecco, che insomma più dell'Inter in questo momento ha un problema di debito, quantomeno per la scadenza, perché la scadenza è il prossimo anno, mentre l'Inter l'ha posticipata al 2022, quando dovrà rimborsare gran parte dei 300 milioni, però insomma certo. Mancano un po' di anni. Facciamo il caso del Milan, il Milan si aspettava un'annata eccezionale di entrare in Champions League e invece così probabilmente non sarà. Questo presuppone che andrà a perdere almeno una trentina di milioni di euro che gli devono essere dati per l'ingresso in Champions, senza poi arrivare appunto ai quarti, dove avrebbe insomma incassato molto di più. Comunque avrebbe perso quindi una trentina di milioni. Sicuramente la stagione negativa va a influenzare anche tutte le altre entrate sui mercati esteri, ad esempio in Cina un Milan vincente sicuramente avrebbe fatto vendere più prodotti collegati appunto al club rossonero. Quindi sicuramente c'è stato un nesso diciamo molto forte fra la stagione deludente e i ricavi del Milan. Ecco, sicuramente c'è un nesso molto forte fra stagione deludente e anche i costi del Milan, perché diciamo che tutti questi acquisti di giocatori con gli ingaggi e quantomeno non hanno fruttato dei risultati sportivi, ma sono stati molto ingenti in termini di costi per il Milan. Ecco, quindi conto economico insomma ne ha avuto un effetto molto forte negativo. Ecco, ovviamente il conto economico negativo poi va a influenzare anche la stessa situazione finanziaria, perché ovviamente il Milan si prepara al rimborso dei soldi ad Elliott in una situazione di conto economico negativo, quindi in una situazione di difficoltà. È chiaro, chiaro, certamente. Ecco, e chi quindi dovrà andare a rifinanziare il debito di Elliott guarderà con molta maggiore prudenza il rifinanziamento. In questo momento ci sono delle trattative con un fondo americano, Highbridge, che ovviamente non sarà molto contento del fatto che appunto i ricavi e i costi del Milan siano i ricavi deludenti e i costi molto elevati. Diciamo, è tutto certo. Collegato, diciamo. Diciamo così, Carlo, che i risultati sportivi non sono fondamentali, ma aiutano comunque la sostenibilità economica di una società. Carlo, allora

18.06 minuti 35 secondi. Buonasera di nuovo da Vincenzo Miglietta, di nuovo insieme per quest'ultima parte di Focus Economia. Staremo insieme fino alle 18.30. Parliamo ora del mezzogiorno, della crescita del sud degli ultimi anni. Lo faremo tra qualche istante prendendo in considerazione nello specifico i dati elaborati congiuntamente da Confindustria e dal centro studi di Banca Intesa. Di mezzogiorno ha parlato oggi il presidente del Consiglio Gentiloni, di fatto nell'ultimo incontro pubblico prima della chiusura della legislatura che dovrebbe avvenire domani. Oggi quindi conferenza stampa sulla ripartenza dell'arcipelago della Maddalena. Ricordiamo i problemi che ci sono stati in quel sito turistico produttivo a seguito del famoso G7 che fu poi spostato all'Aquila. È pronto quindi il rilancio del sito dell'arcipelago della Maddalena. Sentiamo su questo allora proprio le parole del Premier Gentiloni. È un accordo molto importante perché si sblocca una situazione che si prolungava da tempo e si dà una prospettiva straordinaria a questa zona dell'Arsenale in uno dei contesti più meravigliosi del Mediterraneo e quindi con delle prospettive di richiamo per la bellezza, per il turismo, per la nautica da diporto di grandissimo rilievo e interesse. Quindi una buona notizia per la Sardegna, una buona notizia per l'Italia. Mi fa molto piacere che questo avvenga nelle giornate in cui, su tutt'altro versante, siamo riusciti a concludere delle intese importanti per quanto riguarda il futuro di alcune grandi imprese industriali in Sardegna, in particolare per l'Alcoa. E non deve sorprendere, io credo, questa sorta di doppio binario, cioè noi scommettiamo contemporaneamente su quella che nel mondo è la vocazione della Sardegna, alla bellezza, al turismo, alla compatibilità ambientale, e contemporaneamente scommettiamo sull'industria, sul futuro possibile dell'evoluzione dei grandi asset industriali dell'isola. Un futuro che deve e può essere compatibile con l'ambiente. Questo vale per l'alluminio come deve valere per la chimica, per l'energia. Puntare sulla chimica e l'energia e la loro compatibilità con l'ambiente è assolutamente strategico. Queste dunque le parole del Presidente del Consiglio Gentiloni in merito all'accordo di rilancio dell'arcipelago della Maddalena. Abbiamo sentito un doppio binario: da una parte il rilancio del turismo, dall'altra l'importantissimo settore siderurgico dell'isola, quindi doppio binario per la Sardegna per contribuire questa importantissima regione a che il trend di crescita del sud, del mezzogiorno venga rafforzato. Di questo allora parliamo più in generale con un gradito ospite, Stefan Pan, vicepresidente e presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale di Confindustria. Buonasera presidente Pan. Buonasera a tutti. Presidente, con lei partiamo da dei dati diffusi oggi dallo studio elaborato congiuntamente da Confindustria e dal centro studi del gruppo Intesa San Paolo, dati che ci indicano un mezzogiorno che continua, seppur non con ritmi elevatissimi, ma comunque con un segno positivo, una crescita nata nel 2016, dovrebbe chiudere ormai l'anno che si avvia alla chiusura, il 2017, e trend che dovremmo ritrovare nel 2018. È così? È così, proprio così. Questo studio è un po' come un cruscotto del mezzogiorno in cui abbiamo vari indicatori, un indice sintetico che ci fa vedere come ci stiamo muovendo, e tutti gli indicatori che misuriamo, tutti sono positivi, e sono positivi per il secondo anno consecutivo. Questo vuol dire che la ripresa non è un fulmine solitario, ma è una cosa costante che adesso è cominciato in modo timido, certo. Ma diventa sempre più importante e strutturata. E la grande spinta, ho sentito prima l'intervista al Presidente del Consiglio Gentiloni, che dice che scommette sull'industria, ha fatto bene a scommettere sull'industria, perché la più grossa spinta parte proprio dall'industria in senso stretto, che ha aumentato gli investimenti del 40%, che è un dato molto importante ed esprime la fiducia che è tornata, la fiducia che c'è. Abbiamo misurato anche il livello di fiducia, siamo ai massimi, quasi ai massimi storici, e la fiducia è quella che ti fa uscire dalla nebbia. Quindi il Mezzogiorno sta uscendo dalla nebbia, i dati sono positivi in modo strutturale. Ecco, però Presidente, lei ricordava un aumento del 40% degli investimenti, ma parliamo degli investimenti privati. All'appello mancano forse, mi permetto di dire, ancora quelli pubblici? O c'è anche da quell'aspetto lì un dato confortante? C'è una prospettiva confortante. C'è la politica della coesione, quindi i fondi europei che vengono investiti per dare forza a un territorio, che sono poi investimenti pubblici, aiutati dagli investimenti nazionali. A livello di programmazione siamo finalmente superiore alla media europea, e adesso arriva il secondo passo molto importante. Dalla programmazione dobbiamo scaricare sul territorio, far partire gli investimenti. Se partono anche questi investimenti pubblici, allora la gamba privata, che già ha incominciato a correre, avrà la seconda gamba pubblica, che dà forza a una dinamica che poi fa partire tutto il paese. Servono anche, questo è importante, gli investimenti pubblici. Ecco Presidente, stiamo parlando con il Presidente Stefan Pan di Confindustria. Presidente Pan, quando parliamo di queste imprese che crescono nel Mezzogiorno, crescono come investimenti privati, ma le dimensioni di queste imprese qual è? Abbiamo un dato che di per sé positivo, perché abbiamo molte imprese nuove che nascono. Abbiamo moltissime imprese che sono piccolissime e piccole. Se sei piccolo, la produttività non è grandissima. Questa è la sfida. Nasciamo tutti piccoli, ma poi dobbiamo crescere. E questa, assieme all'accesso al credito, sarà una delle chiavi di successo, riuscire a crescere per avere una dimensione che ti aiuta a fare di più. Però anche qui ci sono dei dati positivi. Cresci di più se ti metti in rete, e le imprese che sono in rete sono cresciute in modo sostanziale. Solo nella seconda metà di quest'anno abbiamo più di 1000 imprese che si sono messe in rete. Le imprese giovanili stanno crescendo più della media nazionale. Su tutto il territorio il 41% delle imprese giovanili nascono nel Mezzogiorno, quindi anche questo è un segno di grande vitalità e voglia di fare. Ci sono dei settori che stanno trainando maggiormente questa ripresa del Mezzogiorno? Sì, dopo un momento di stasi è ripartito anche il settore del petrochimico, che segna un 42% i prodotti di raffinazione, quindi è tornato uno scatto. È ripresa anche il settore chimico, è ripresa la farmaceutica, quindi ci sono dei settori che stanno crescendo a doppia cifra, e questo dà forza a tutto il territorio. Grazie al Presidente Stefan Pan, Vicepresidente di Confindustria. Noi ci fermiamo per le strade in diretta, per il traffico, e poi affrontiamo il nostro ultimo argomento, che è il rinnovo del contratto degli statali. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, parliamo del rinnovo del contratto degli statali. Prima una notizia relativa al Bitcoin, che prosegue con la sua corsa al ribasso. Notizia di pochi istanti fa: la criptovaluta perde il 7,1% e scende sotto quota 15.000 dollari. in calo anche i future che perdono il 6,7%, quindi momento decisamente non positivo per la criptovaluta. Però veniamo a qualcosa non di più reale, perché anche il Bitcoin lo è, ma che interessa sicuramente in Italia molte più persone: il rinnovo del contratto degli statali, maratona notturna nella notte, quindi tra venerdì e sabato scorsi, contratto degli statali che non veniva rinnovato da circa 10 anni. Ci aiuta a capire gli elementi più importanti di questo rinnovo il collega del Sole 24 Ore, Gianni Trovati. Buon pomeriggio, Gianni. Buon pomeriggio a voi. Ma l'elemento più importante sono gli aumenti, come sempre capita quando si rinnovano i contratti. Qui parliamo degli statali veri e propri, cioè quelli che lavorano nella PA centrale. Parliamo di circa 250.000 persone. Gli aumenti sul tabellare valgono il 4,5%, cioè lo stipendio tabellare base, il fisso, di ciascuno aumenta del 4,5-4,6%. È un aumento di fatto lineare, a cui si aggiunge un piccolo bonus che oscilla tra i 21 e i 25 euro al mese per quel che riguarda le fasce di inquadramento e quindi di reddito più basse. È un bonus temporaneo, nel senso che ci sarà da marzo a dicembre. Quest'ultima parte, però, dei 20 euro serve a tamponare l'effetto sulla perdita del bonus da 80 euro. In pratica, chi sta attorno ai 26.500 euro di reddito con l'aumento contrattuale esce dal raggio d'azione del bonus Renzi, quindi gli rinnovano il contratto, gli danno un aumento lordo, gli tolgono che però gli porterebbe meno soldi, e quindi gli danno questa differenza, gli danno questa cosa. Però è un puntellino, diciamo così, temporaneo, finisce a fine 2018, perché anche il contratto rinnovato appunto adesso copre il triennio 2016-2018, quindi scade al 31-12 dell'anno prossimo. Quindi l'abbiamo rinnovato adesso, ma dura di fatto un anno. L'abbiamo rinnovato alla fine, dura di fatto un anno. Le conseguenze sono due. La prima, con la prima busta paga utile del contratto rinnovato arriveranno gli arretrati degli ultimi due anni. Per lo statale medio si tratta di circa 570 euro, una tantum che coprono il 16 e il 2017. L'altra conseguenza però è che quando in autunno ci troveremo a dover fare la prossima manovra, parleremo del contratto degli statali, perché c'è il triennio 2019-2021 che è tutto da rinnovare, tutto da finanziare, eccetera. Prima però dovremo parlare dei nuovi contratti per tutti gli altri dipendenti pubblici, che sono i dipendenti della sanità, 600.000-700.000 persone, regioni e autonomie locali, 500.000 persone, e soprattutto la scuola, 1.200.000 persone, che devono ancora rinnovare il contratto. Sostanzialmente in questi comparti tradurranno i contenuti dell'intesa appena raggiunta per gli statali. Il problema è che sanità, regioni e enti locali se lo devono finanziare loro, mentre il contratto degli statali è finanziato in larghissima, è finanziato tutto dalla manovra, in larghissima parte dall'ultima manovra, quella che è stata appena approvata dal Parlamento. Quindi ultima manovra di fatto approvata pochi giorni fa dal Senato, 2 miliardi dicevamo? 2 miliardi e 8, sostanzialmente 1 miliardo e 9 aggiuntivo rispetto a quello che era stato già messo nelle manovre precedenti, perché ricordiamoci in estrema sintesi, i contratti sono congelati da 10 anni, l'ultimo rinnovo riguarda il triennio 2008-2010. Nel 2015 la Corte Costituzionale ha detto basta, non è che si può lasciarli senza contratto, sbloccate l'adeguamento per sempre, solo che non si sapeva A come fare, B soprattutto come finanziarli, quindi le manovre degli anni passati hanno messo sul tema una piccola quota, 300 milioni il primo anno, 900 il secondo anno. Mancava tutto il resto, mancava il 1,850 miliardi che è stato messo dall'ultima manovra e che copre larga parte, diciamo così, degli impegni di questa manovra, in verità almeno degli impegni lasciati liberi dallo sblocco delle clausole degli aumenti IVA. Per ora la collina è stata scavallata, almeno per quanto riguarda gli statali in senso proprio, perché per esempio i comuni il giochino costerà circa 600 150 milioni di euro. Gli aumenti per i dipendenti degli altri comparti sono uguali per legge a quelli previsti dagli statali, quindi non c'è una alea, non è che si può decidere di aumentare meno in proporzione gli stipendi dei dipendenti comunali, delle regioni, della sanità, eccetera. Quello che cambia è che lo Stato lo finanzia lo Stato, le regioni le finanziano le regioni, i comuni li finanziano i comuni, e su quello, diciamo, c'è già un po' di malumore che però non si può tradurre in misure concrete, perché, ripeto, ci sarà un decreto di Palazzo Chigi che in pratica dice: siccome agli statali l'abbiamo aumentato dell'X%, voi dovete mettere da parte, voi regioni, voi comuni, eccetera, una somma uguale in proporzione per rinnovare il contratto dei vostri dipendenti. Ecco, allora, la grana, diciamo così, passa adesso agli enti locali. La grana passa agli enti locali, alle regioni e al fondo sanitario, ma andrà sciolta entro gennaio. Ecco, questo qui ti volevo chiedere. No, entro gennaio ci dovranno essere i rinnovi, anche perché la corsa è stata fatta per cercare di mettere gli aumenti in busta paga prima delle elezioni politiche, diciamo così. Non ce la si farà, nel senso che, appunto, saranno le buste paga di marzo per gli statali a reperire gli aumenti. Le buste paga arrivano a fine mese, le elezioni sono all'inizio del mese, quindi vabbè, insomma, ci si è provato. È verosimile che per tutti gli altri comparti la cosa sia più o meno immediata, cioè verso gennaio si chiuderanno i tavoli e quindi verso aprile arriveranno gli aumenti in busta paga, perché, ripeto, non c'è possibilità di scelta. Questo però, diciamo così, ingabbia molto, irrigidisce molto i bilanci degli enti locali, e soprattutto, perché sanno già che dovranno comunque impegnare, esatto, una cifra, esatto, del genere. E soprattutto azzera di fatto l'aumento per del fondo sanitario. Il fondo sanitario del prossimo anno aumenta in termini nominali di 1 miliardo. Questo aumento era già stato previsto non dall'ultima ma dalla penultima legge di bilancio. Gli avevano detto: guardate, nel 18 avrete 1 miliardo in più, però circa 900 milioni se ne vanno per i nuovi contratti, quindi l'aumento non c'è. Ma allora, come direbbe qualcuno, la domanda sorge spontanea: se non ci fossero state le elezioni, i 10 anni di rinnovo sarebbero diventati 11, o comunque i tempi erano maturi per arrivare a questo rinnovo, che, ricordiamo, è importante la parte economica, ma ha tutto un corollario di, in teoria, no, di nuovi comportamenti del mondo del pubblico, che forse... Diciamo che i tempi erano maturi, perché sono passati 2 anni e mezzo dalla sentenza della Corte Costituzionale. Noi non siamo un paese attentissimo né alle regole, no, né alle scadenze, ma insomma la Corte Costituzionale è comunque un organo importante. Far passare troppo tempo, già ne è passato troppo, senza dare seguito alle sue indicazioni non era possibile. Il problema qual è? Che la fretta e lo stato di emergenza, diciamo, a cui si è giunti con questo rinnovo, ha portato a lasciare fuori dal tavolo tutti gli elementi di innovazione che avrebbero potuto complicare le trattative. Sia il governo sia i sindacati avevano l'interesse congiunto di fare in fretta. La politica si rinnova con le elezioni a, certo, marzo. I sindacati hanno le elezioni delle rappresentanze del pubblico impiego ad aprile, quindi è la stessa cosa. E per fare in fretta, diciamo così, si è fatta la cosa più tradizionale possibile, cioè un aumento sostanzialmente lineare per tutti e un ritorno alla concertazione vecchio stile, cioè la parte, diciamo così, normativa del contratto riapre le porte a quello che adesso si chiama confronto, hanno trovato un nuovo termine, ma è la vecchia concertazione, con i sindacati su tutti gli aspetti del lavoro pubblico, dalla valutazione all'articolazione dell'orario di lavoro alla mobilità e così via. Non è esattamente la cosa più nuova che si potesse fare. Ecco, abbiamo ancora 1 minuto, proprio su questo ti volevo riportare, i cosiddetti furbetti, il passaggio del badge, tante cose che ci siamo portati dal passaggio dal ministro Brunetta al ministro Madia. Resta qualcosa? Il contratto assorbe qualcosa che porti a una maggiore efficienza e produttività della macchina amministrativa? Da questo punto di vista il contratto assorbe le novità dei decreti attuativi della riforma Madia, per esempio, i licenziamenti sì. sprint per quelli che vengono beccati a timbrare l'uscita e poi gli vanno a fare la spesa, ma non poteva fare altro perché la legge domina sul contratto e il contratto non può che prenderne atto. Su quello che invece riguarda per esempio differenziazione delle buste paga in base alla valutazione della produttività, su cui il contratto aveva più possibilità di scelta, lì diciamo si torna molto indietro, nel senso che le risorse destinate a differenziare davvero le buste paga sono molto limitate, quindi gli interventi saranno a raggiera. Perché? Perché sul piano sostanziale, al di là di quello che sono gli indirizzi politici o le dichiarazioni, sul piano sostanziale l'obiettivo era recuperare in parte il tempo passato. Lo dimostra gli aumenti sono del 4,5%, certo. ma l'inflazione del periodo contrattuale è del 2,5%, quindi quel 4,5% serve a recuperare un pezzo del congelamento, non tutto, ma si recupera l'inflazione dal 2013 a oggi. Benissimo, grazie al collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati. Io ricordo brevemente, da domani in il fascicolo della collana del Sole 24 Ore, nuovo risparmio in edicola. Un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini e Valeria Bernardi in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24, libera la voglia di fare.